approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Milioni di euro per le imprese di autotrasporto che rinnoveranno il parco veicoli commerciali e industriali con mezzi alimentati a metano e metano liquido e in più, nella prossima finanziaria, l'estensione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per coloro che acquisteranno veicoli di nuova generazione per il trasporto per conto terzi. Anche di questo si è parlato lo scorso 3 dicembre a Roma, nel corso dell'Assemblea Pubblica di ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche, durante la quale sono emersi alcuni dei temi chiave per il futuro della mobilità. Entrambe le disposizioni del governo vanno a beneficio di un settore che dal 2007 al 2014 ha subito un calo di oltre il 50% della produzione nazionale e puntano ora non soltanto al rilancio della produzione, ma ad un'economia più sostenibile e innovativa grazie alle nuove tecnologie. Al centro dell'incontro dell'ANFIA anche gli ETS, uno strumento indispensabile nelle attuali politiche di mobilità. In base ai dati della Commissione europea negli Stati membri in cui sono stati impiegati i sistemi di trasporto intelligente, sono state ottenute infatti riduzioni dei tempi di spostamento del 20% e miglioramenti in termini di sicurezza del 10-15%. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Oggi ci occuperemo in particolare di autotrasporto, ma anche di ITS, i sistemi di trasporto intelligenti che sempre di più stanno caratterizzando il mondo dei trasporti, e lo facciamo in compagnia del neo presidente di ANFIA, Aurelio Nervo. Allora, il tema degli ITS è stato al centro della vostra assemblea, quello che l'ha eletta tra l'altro nuovo presidente di ANFIA lo scorso 3 dicembre a Roma. Quanto sono importanti oggi questi nuovi strumenti telematici per il mondo dei trasporti, ma soprattutto quanto lo saranno sempre di più in futuro? Ma credo che già oggi siano effettivamente molto, molto importanti. Pensiamo solo quando guidiamo un'automobile, tutti gli aiuti che abbiamo dal GPS a collegamenti internet, a tutta una serie di servoassistenze che ormai si trovano sui vicoli dei mezzi di trasporto pesanti o delle automobili. Però credo che, proprio come abbiamo accennato e sviluppato durante la nostra assemblea pubblica di ANFIA, il tema della guida autonoma e il tema della digitalizzazione dell'industria sono, secondo me, effettivamente due assi portanti per i prossimi 20 anni. L'altro aspetto di cui abbiamo accennato nell'assemblea, che è la digitalizzazione dell'industria, o come viene chiamato oggi internazionalmente l'industria 4.0. Insomma, un concetto allargato di rete sostanzialmente. Sì, una rete. Se pensiamo che in Italia ci sono ovviamente una preponderanza di piccole e medie imprese che spesso scontano proprio il problema della dimensione con competitor internazionali, questo mettersi in rete fa sì che, trovando una posizione in questa catena del valore di anche aziende piccole di nicchia, la dimensione diventi meno importante, certo, per la competitività internazionale. Quindi questo credo che sia molto importante. Ecco, lei ha parlato dei prossimi anni, è stato eletto qualche settimana fa alla guida di ANFIA. Quale sarà il programma, il suo programma? Continuare sulla strada di un coinvolgimento con tutti gli associati nostri attraverso gruppi di lavoro focalizzati nella rappresentazione della nostra filiera a livelli istituzionali in Italia e in Europa sicuramente sarà l'asse portante. Tra l'altro, nel corso dell'assemblea è stata espressa anche soddisfazione in merito a dei recenti provvedimenti del governo a sostegno del settore dei trasporti. Mi riferisco al decreto sugli investimenti delle imprese di autotrasporto e anche al decreto sull'estensione del fondo di garanzia per le PMI per il rinnovo del parco veicolare, che è un tema sicuramente a voi molto caro. Io credo che siano tutti aiuti a un mercato che ha sofferto, a un settore che ha sofferto molto, ma che anche determinano una maggiore attenzione da parte del governo, che noi apprezziamo molto, verso questo settore. E come abbiamo ascoltato dal nuovo presidente di ANFIA, il tema della mobilità intelligente è sicuramente al centro del dibattito. Ne parliamo in compagnia di Rossella Panero, che è il presidente di TTS Italia, che è l'organizzazione che segue appunto gli sviluppi dei trasporti intelligenti. Dottoressa Panero, proprio qualche settimana fa c'è stata a Bordeaux la 22esima edizione dell'ITS World Congress, che è l'appuntamento mondiale in cui si parla di telematica applicata ai trasporti. Quali sono state le principali novità che si sono viste in Francia? Le novità davvero sono state, più che sul piano delle tecnologie, sul piano del coinvolgimento di diversi soggetti, stakeholder, dei risultati e dei benefici che l'adozione di queste tecnologie può portare per il miglioramento della mobilità, per la realizzazione delle smart cities e della mobilità sostenibile. Quindi abbiamo visto a Bordeaux tanto relativamente ai temi della comunicazione tra veicoli e tra veicoli ed infrastrutture. Credo che questo sia un tema che coinvolge e che porta l'interesse di molte associazioni, non ultima anche l'ANFIA, che sicuramente ha posto molta attenzione da tempo a questo tema, ma che chiama in causa necessariamente dei soggetti che sono i soggetti gestori della mobilità, soprattutto nei grandi centri urbani. Certo, ecco, proprio a questo proposito TTS Italia sta lavorando su una piattaforma che coinvolge gli enti locali. Di che cosa si tratta? Difatti, proprio per questa ragione, perché ormai da qualche tempo, sin dall'anno scorso, abbiamo puntato come strategia di TTS Italia a trovare un modo per coinvolgere maggiormente nei lavori dell'associazione quelli che sono i soggetti cosiddetti della domanda, quindi gli enti locali e tutti coloro che sono preposti ai servizi di mobilità, che possono essere non solo le aziende che si occupano di trasporto pubblico locale, ma soprattutto le agenzie per la mobilità e in generale gli enti, e li abbiamo coinvolti istituendo una piattaforma degli enti locali dove gli enti possono partecipare a titolo gratuito ai lavori di TTS Italia, convinti di creare così un dialogo, un collegamento tra il mondo dell'offerta, quindi tutte le aziende fornitrici di soluzioni tecnologiche che sono da sempre gli associati di TTS Italia, e il mondo della domanda, cioè di questi soggetti pubblici che possono poi davvero beneficiare lanciando delle iniziative, facendo dei nuovi progetti nell'adozione di queste tecnologie, migliorare la mobilità e quindi migliorare la situazione dei loro centri urbani. Certo. O anche delle aree extraurbane. Ecco, la telematica, come abbiamo più volte detto, è ormai entrata pienamente nella vita di chi si occupa di trasporti e di chi si muove sulla strada con computer, sensori, telecamere, insomma c'è davvero di tutto. Ma qual è secondo lei l'innovazione che cambierà completamente nei prossimi anni il nostro modo di spostarci e anche forse il modo di muovere le merci? Io torno sul tema di prima, da dove siamo partiti. Quello che cambierà tutto, secondo me, sarà il raggiungimento dell'obiettivo dell'avere tutti i veicoli che circolano connessi in rete, che siano veicoli privati, che siano veicoli di trasporto collettivi adibiti al trasporto di persone o veicoli adibiti al trasporto delle merci, in particolare nell'ambito urbano. Ecco, secondo me si farà un salto quando tutti i veicoli saranno connessi ad una rete, quindi quando ci saranno anche delle norme nazionali che porteranno ad avere questo, non solo le norme che già esistono a livello europeo e che ci portano in questa direzione come le norme sull'e-call, ma anche delle norme nazionali che consentano di avere tutti i veicoli connessi. Lì davvero sarà possibile fare delle nuove politiche di gestione della mobilità. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In